Ok. Già io ho perché non sono sicuro che tutti abbiano colto la questione alle 5. Ma siccome oggi parliamo di gestione di processi, gestiremo questo strano orario flessibile, quindi va bene. Anche perché siamo in ritardo rispetto alle 4, ma in anticipo rispetto alle 5. Quindi siamo in uno spazio, in una bolla. Come solitamente. Lo spazio quadro. Esatto. Sia lì, sia lo spesso. Siamo in uno spazio quadrimensionale. Allora, mi è toccato l'onere e l'onore di introdurre l'ultimo di questi nostri consigli. E nel frattempo capiamo che c'è un signore di microfono, non lo so. Lo parliamo a volte molto alto, siamo un brusio di fondo. In fondo è il bar. È Andrea. È il bar. Metto la calda in faccia e poi io. Questi pantaloni ce l'avevo uguali. La guisa da vestiti uguali? Penso che ci sono le scarpe. La pantalone mancava tutto ma non le scarpe. Ma devi stare il cotellino. Forza. Tanto era sempre lo bronzato. Sei abbronzato mattina. Basta la maniera di te. Sì, sì. Ora ci stiamo. Qui c'è il tecnico, sarebbe comodo. Il tecnico. Dove sta il banco? Prova. Aspetta, ragazzi, stiamo calmi. Prova. Sa. 1, 2. Prova. Il volume era sensibile. È al minimo. Cosa che non va? Gesuomo, eccolo, prova, ora è garbato, prova, Il volume era settato su un desidisimico. Prova. Va bene, no, tocco. No, dai. Sì, allora. Questo ciclo di 5 seminari chiamato l'anatomia della concretezza è stato ancora una sorta di esperienza kaleidoscopica perché per la nostra il nostro bisogno di confrontarci con fenomeni complessi come quelli che ci troviamo a osservare da un po' nelle nostre professioni ci vuole assolutamente uno sguardo caleidoscopico sulle cose, per cui da uno sguardo clinico a uno sguardo antropologico, a uno sguardo direi antropologico architettonico, non so neanche come dirlo, come definirlo, le cose che fate sempre sono complesse, intrigantissime e complesse. Totò, Claudio, Lio, Giro, insomma, è da un po' che proviamo a occuparci di che cos'è l'educazione, di cos'è l'educazione e il lavoro sociale. Sappiamo benissimo per esperienza sulla pelle che parole come l'espressione scolastica o addirittura la povertà educativa che fa veramente a cui dire penso ci confronteremo con questo binomio per i prossimi anni, non lo so, sono parole che ti chiedono di progettare, fatto mille quali ti chiesto di progettare, ma di fatto sono una forte illusione della mente e questo non è un dato a priori ma è il risultato di diciamo decenni di esperienza sul campo. Si intreccia l'esperienza di molti di noi che sempre a proposito del disagio della città e dei luoghi abitativi ci ha visto unirci, raggrupparci attorno a questa parola che è contrattempi, che oggi ci ha preso in pieno. Il contrattempo è qualcosa che ti blocca il tuo percorso principale, ma è anche una pausa fra due azioni, il contrattempo. In musica faccio una spiegativa cos'è il contrattempo. È un nome che ci siamo dati dopo un paio d'anni di lavoro attorno a vedere fatica. Ed è cos'è? Un luogo mentale, un luogo fisico, non saprei neanche come definirlo. Un insieme di pratiche portate avanti da persone che fanno lavori diversi, dalla Teoria di Gesù a Totò a Carolte. Che è a vario titolo in varie, e per varie pratiche si incontrano. Con uno spirito che secondo me è molto vicino a questo dei seminari, che è quello della coformazione. Cioè, io prendo a piene mani da quello che tu mi porti e viceversa. Perché sono sicuro che attraverso un discorso di analisi delle relazioni ci sta la clinica, ci sta la progettualità, ci sta l'architettura, ci sta la politica, ci sta la mafia, tutte cose con le quali costantemente ci dobbiamo confrontare. Ci siamo confrontati anche con l'ideologia hacker in queste ultime settimane, che ci ha molto preso, tutto un percorso di studio su come il digitale plasma ormai è la nostra mente e il nostro modo di stare nel mondo e quanto questo c'entra, cioè qualcosa se è l'ultimo pezzo di vita che stiamo vedendo, sta rosicchiando, e come è pensato il nostro stare insieme gli uni rispetto agli altri da quel punto di vista particolare. Abbiamo scoperto che anche da quel punto di vista, cioè quello digitale, l'attenzione deve essere altissima, anche lì, perché non ti accorgi a livello conscio o preconscio di quanto sei pensato all'interno della rete. Ora presentare Giuseppe la seconda volta in questo posto che mi tocca. Una volta era venuto a Cianconi, ti ricordi tu, parlavi del suo libro. Però all'epoca mi ricordo bene che disse Giuseppe aveva bisogno di presentazione. Da una parte è bello, dall'altra però è una cosina mia, volevo dire, proprio mia, senza dire, senza dire presentazione, che ha fatto il festival di Levanzo l'anno scorso, che è stato bellissimo, sulle migrazioni. Io conosco Giuseppe diversi anni fa, quando lui sostanzialmente conduceva dei gruppi di discussione ai cantieri culturali dell'artista. Durante quel fortissimo movimento che ha visto praticamente mezza Palermo occuparsi di nuovo del territorio consortoriano. E devo dire la verità, io ero già un panelista da un bel pezzo, quindi. Però la sua gestione dei gruppi era una cosa che a me mancava, l'atteggiamento, lo sguardo, se volete ovviamente anche la terminologia, ma l'effetto sul processo, l'effetto emotivo sui processi di discussione attorno alla polis era lo stesso, cioè le emozioni che toccava il gruppo che conduceva anche, faceva seminare. Io arrivavo e li trovavo incerti come ora seduti, ma assemblee anche di 100 persone, so se mi prese moltissimi, e però non è stato subito di facile ascolto, devo dire, perché l'intreccio tra la dimensione politica, la dimensione di protesta, la dimensione di lotta, la dimensione delle dicotomie terrificanti pubblico privato, che cos'è la coprogettazione, se riesce a farla respirare attraverso un gruppo e farla circolare, qualcosina basta, se no rimangono parole vuote. Quindi già io all'epoca ebbi questo, ero molto aperto a questo tipo di possibilità, di capacità di stare nei gruppi serenamente, a collarsi anche conflitti molto duri che poi sono arrivati, perché ovviamente era la città che parlava, non c'era l'istituzione, quindi era come stare dentro la polis direttamente rappresentata dal vivo. Allora, io sono anche supervisore di un gruppo di lavoro che prova a stare con tutta la sua fatica insieme agli abitanti di Borgo Verde, insieme a ragazzine delle scuole, in un progetto contro l'espressione scolastica. E penso alcuni dei ragazzi e delle ragazze, ci siamo detti di fare qualche foto, qualche scatto di quel territorio che potesse dare qui a noi qualche flash non discorsivo e non razionale su quello che loro vedono, su quello che noi vediamo, senza essere troppo filtrato dal livello razionale. Se magari le vuoi mandare, prima di passare la parola a Giuseppe, e poi anche lui avrà delle cose video, e penso alla fine, giusto? Sono solo degli scatti. Se lo dovevo scatto con le mie due parole, che vuol dire? File si chiama Marsala Foto, ma non sono foto di Marsala. Ma per me è un onore, però, a questo punto. La cartelletta si chiama Marsala Foto. Questa è la... Questa l'ha fatta Cristian, che non è con noi. Anche questa è di Cristian. Questo è Borgo Vecchio. Questo è Borgo Vecchio. Questo è Borgo Vecchio. Chi l'ha fatto? Io sono stessa. Che bello. Quello è il campo di calcio dove faremo i terreni antirazzisti noi lì. Sono 13 cassonetti messi tutti insieme appassionatamente. Davanti al campo. Questa è fatta a Gabri. E questa è vista stanza dove lavoriamo noi ogni giorno. Non capisci? Non capisci se sei a scuola o se sei in scuola. Quello è il campo di calcio dove si gioca a pallone pieno l'ora d'aria. Intanto mi scuso per il contrattempo, però abbiamo capito che i contrattempi sono una condizione fertile, quindi prendiamocela così, questa cosa. Io intanto, vabbè, i ringraziamenti in questi casi si fanno sempre, perché è giusto farlo. In verità io sono molto contento di fare questa giornata oggi, perché, come accennava Salvo, molti dei percorsi in corso, diciamo, molte delle pratiche, delle riflessioni che stiamo portando avanti attraversano pienamente questo spazio, lo nutrono e si nutrono di questo. E anzi io trovo che vi sia un nutrimento circolare continuo tra tutte queste cose che stiamo facendo, che è in qualche modo il senso, un po' forse delle cose che diremo oggi, ma certamente il senso delle cose che abbiamo detto sino ad adesso, forse il senso stesso della presentazione che facevi tu. Io invece ho bisogno di presentazioni, perché ogni volta che noi parliamo di noi ci ridefiniamo, cioè ci serve sentire come tra di noi ci raccontiamo, forse serve più che altri ci presentino e non che noi ci presentiamo, perché questo continuamente ci fa rimodificare anche la nostra stessa collocazione dentro lo spazio sociale, relazionale. Quindi ho bisogno di presentazioni con tutti noi, perché questo ci aiuta nel discorso. Io mi occupo di spazio, non dello spazio, non sono un astronauta, insomma. Comincerei da qui, perché già la nozione di spazio è una nozione molto complicata, come lo è quella di territorio. Proveremo a ragionarci insieme su cosa possono significare queste cose, e partirei dal dubbio, in qualche modo, la tua difficoltà iniziale a definire che cos'è contrattempi, no? che spazio è. È uno spazio fisico, è uno spazio sociale, è uno spazio. Credo che questa difficoltà a definire lo spazio di contrattempi sia in qualche modo la figura con la quale noi di fatto ci troviamo ad avere a che fare quando proviamo a definire non solo che cos'è quel tipo di spazio, ma in generale che cos'è lo spazio del sociale, cioè come si definisce. Quali sono i contorni, gli elementi che connotano uno spazio sociale, se coincidono con uno spazio fisico, se non coincidono necessariamente con uno spazio fisico, che ruolo ha lo spazio fisico nel consolidare pratiche che invece sono pratiche di relazione. Tutte queste sono domande aperte che ci facciamo continuamente e che continuamente rispondiamo di fatto attraverso altre pratiche. Cioè, la difficoltà in questo momento a trovare, diciamo, in qualche modo una matrice teorica, una dottrina, diciamo così, no? Per definire certe cose, è esattamente la condizione in cui ci troviamo. Perché ci troviamo in questa condizione è molto complicato da capire e da spiegare. Io credo che alcuni passaggi però ci possono aiutare. Io avevo fatto una scaletta di cose che naturalmente un po' seguirò, un po' no, poi tu hai detto delle cose, me ne sono venute in mente altre, eccetera, e poi parlare per ultimo è sempre molto vantaggioso, perché tu raccogli tutte le cose che si sono ascoltate, che sono appunto suggestioni molto, molto utili a continuare il discorso. E partirei per esempio in questo momento da un libro molto recente che si chiama L'alleanza dei corpi di Judith Butler, che immagino che tutti voi conosciate come autrice, che è un libro che parla di corpi, cioè utilizza nel titolo Tutti voi conosciate. Arrivi per questo? Inviteremo anche lei, noi facciamo presentazioni di libri molto. Questo perché mi interessa questo libro? Perché nella dittatura, diciamo così, dell'era digitale, lei segnala un terreno che a mio avviso è un terreno, un interessante terreno non tanto di resistenza, ma persino quasi un po' rivoluzionario, su cui poter agire delle forme non solo di hackeraggio, per esempio, che pure sono una delle pratiche di cui stiamo parlando, ma anche proprio di ricostruzione di uno spazio politico e sociale dove i corpi acquistano un'importanza molto più forte rispetto a quanto non fosse prima, forse proprio in relazione alla dimensione digitale che oggi invece pervade il nostro spazio, anche lì che spazio è, uno spazio fisico, è uno spazio dei corpi, perché poi il punto vero è che la dimensione digitale non esclude i nostri corpi, anzi al contrario, li coinvolge in una maniera forsennata, direi, ne condiziona i nostri movimenti, condiziona le nostre posture, e quindi i corpi c'entrano molto, però noi abbiamo la sensazione che non c'entrino. Quindi dobbiamo in qualche modo ridisegnare le posizioni dei nostri corpi rispetto al contesto in cui ci muoviamo. Ma questo libro parla anche di materialità dell'incontro, per esempio, parla della necessità di disconnettersi dal web e far ritrovare, diciamo, un piano di riconnessione appunto politica e sociale. Riconosce il conflitto come motore delle trasformazioni, qualunque esse siano, dal riconoscimento di un diritto negato sino alla trasformazione della destinazione d'uso di uno spazio fisico che diventa da una cosa diventa un'altra, perché diventa uno spazio gioco, per esempio, diventa uno spazio sociale, eccetera. A proposito di questo spazio che è fantastico, perché cos'è questo? Chi è che riesce a dire in una parola che spazio è molti volti? È uno spazio gioco, perché in questo momento diventa uno spazio gioco. Questo processo, che si chiama processo di territorializzazione, cioè dire il territorio non si definisce a partire dall'idea politica, normativa, cioè il territorio viene da territo, cioè vuol dire possessore di uno spazio, quindi intanto territorio significa nel suo etimo, definisce il concetto di proprietà, cioè possedere uno spazio. Ma vuol dire anche luogo descrivibile attraverso i suoi confini, ok? Quindi sostanzialmente nella dimensione politica la parola territorio definisce un possedimento e un confine. Oh. Né una proprietà per una visione, né un confine che porta verso. Esatto, cioè noi abbiamo enormi difficoltà a leggere il territorio esattamente in questa maniera. Cioè, non, è un lemma assolutamente insufficiente, no? Questa nozione per descrivere che cos'è di fatto un territorio, che invece si definisce a partire dalla semantica dell'azione, direbbe Ricovero, cioè dal fatto che un'interazione tra soggetti e tra contesti di vario tipo, naturali, fisici, tra le persone, eccetera, definisce un territorio. Questo processo, che non è una forma, appunto, ma un processo, ci consente di parlare non tanto di territorio, ma quanto di territorializzazione, che è la stessa ragione per cui un architetto, io faccio l'architetto e mi occupo di spazi, oggi non deve occuparsi della forma degli spazi, ma casomai della forma dei processi che generano gli spazi. Ora, tutto questo io credo abbia molto a che vedere con il lavoro sociale, per dire, anche rispetto alle cose che abbiamo fatto ai cantieri, eccetera. Cioè, io penso che noi dobbiamo intanto accettare che gli spostamenti che produciamo con il nostro lavoro non è necessario che noi sappiamo leggerli esattamente, cioè le categorie con cui noi possiamo leggere e interpretare gli esiti del nostro lavoro non possono essere categorie definite prestabilite, sono categorie mobili. Quindi tutta l'applicazione del giudizio su noi stessi dentro il nostro lavoro non può essere parametrizzata a partire da, come dire, parametri troppo definiti. Anzi, dobbiamo persino accettare la possibilità che non siamo nelle condizioni di definire questo esito. Cioè, dobbiamo accettare la possibilità di avere contribuito a innescare un processo, ma che non ne possiamo e non dobbiamo necessariamente definire e conoscerne gli esiti. Questo, secondo me, è un primo orizzonte di discussione che io vi sottopongo, che ha molto a che fare con dinamiche di vario, che sono le dinamiche della politica, sono le dinamiche della costruzione dello spazio urbano, per esempio. L'urbanistica moderna aveva come figura di riferimento, come, se pensiamo ai giochi, aveva come suo riferimento il puzzle, cioè una figura nota prima, rispetto alla quale a disposizione di tessere, anch'esse già disegnate, la loro collocazione di queste tessere avrebbe generato quella figura. Questa idea, non solo, su questa idea si è formata tutta la cultura delle trasformazioni urbane, ed è fallita miseramente, perché mentre si guardava a quel puzzle, nel frattempo la città si trasformava in una direzione completamente diversa. Allora, questo è un primo punto. Se proprio ci deve essere un gioco che ci può aiutare nella definizione di questi processi, è casomai lo Shanghai, cioè un gioco in cui diversi attori è la disposizione che in quel momento le asticelle del gioco prendono, consente a noi di generare una nuova forma, una nuova figura, e quindi di cambiare di fatto la figura che abbiamo sul tavolo. Ma questa idea, tutta novecentesca, tutta figlia della modernità, che prometteva perché il puzzle era una grande promessa, era evidentemente una figura suadente rispetto a un futuro possibile, rispetto a un orizzonte, eccetera, eccetera. Evidentemente è una matrice culturale molto forte e non è così scontato che, che noi non continuiamo a pensarla così. Magari non lo sappiamo, magari siamo consapevoli di quel fallimento, ma non riusciamo ad accettare del tutto l'idea che possiamo procedere senza averci una figura predefinita. Questo primo nocciolo di ragionamento, perché ci può essere utile rispetto al lavoro sociale? Perché secondo me, e io lo vedo per esempio nella gestione dei processi decisionali di alcune scelte rispetto a, per esempio, delle configurazioni urbane, no? Le destinazioni d'uso di un edificio, di uno spazio pubblico, eccetera. Noi riteniamo che stavo parlando del può essere utile perché se noi proviamo a immaginare che il nostro lavoro può innescare dei processi, no? E quindi concentriamo tutta la nostra attenzione nell'accumulazione di una serie di indizi che nascono dalla lettura, dall'ascolto, che nascono dalla relazione, altro concetto fondamentale di cui si è parlato anche la volta scorsa, ne parlava Ferdinando Fava, per esempio, a proposito di intervenire, cioè di intervenire dentro lo spazio, no? Se noi facciamo parte di quel processo possiamo individuare alcuni indizi, accumularli e provare a lavorare su quelli perché generino, perché inneschino dei processi di trasformazione. Detto questo, però, secondo me sarebbe un errore molto grosso se noi pensassimo che questi processi li dovessimo seguire fino alla fine per forza e ce ne dovessimo fare carico in tutti i sensi. Cioè, noi non ci possiamo fare carico del fallimento di quei processi, perché questo atteggiamento, rispetto alle cose, rispetto alla città, rispetto alla società, rispetto alle persone, è un'idea demiurgica della società, cioè c'è l'idea che noi in qualche maniera siamo solo i medici, mentre noi, e questo è un altro modo, secondo me, centrale di discussione, siamo i medici e i malati contemporaneamente. Lo sostenere la donna, che non si può pensare a una cura se non si è in qualche modo un pezzo della malattia, ma siamo i malati per un'altra ragione, secondo me, che ha a che fare, e torno al libro della attorno all'alleanza del corpo, ha a che fare, insomma, ci hanno raccontato che c'era una crisi, no? Che questa crisi era una discrasia temporanea, che era etimologicamente legata al suo etimo, era uno spazio, uno stadio intermedio di frattura tra una condizione e un'altra, e quindi, leggendo la crisi in questi termini, siamo messi lì, ci hanno detto che stava per finire, e noi tutti lì ad aspettare che questa cosa finisse, no? Ora, questa cosa non finisce, mettiamola così, ma in realtà non è che deve finire, non c'è niente da finire, perché se noi proviamo a immaginare che piuttosto che essere uno stato intermedio tra due condizioni, quella che oggi chiamiamo crisi, quella che nel libro viene chiamata precariousness, cioè condizione di precarietà permanente, non è appunto uno stato intermedio, ma è una specie di condizione ontologica dell'anarcocapitalismo, cioè della condizione contemporanea. Questo modifica completamente lo sguardo che noi diamo a questo spazio dentro il quale ci sentiamo, stiamo male, dentro il quale viviamo il disagio, viviamo l'angoscia, viviamo il senso di autoinsufficienza a vivere, un senso di inadeguatezza, frustrazione, autocolpevolezza. Perché viviamo autocolpevolezza? Perché ci hanno fatto pensare che non solo prima o poi la cosa è definita, ma dentro questo sistema a un certo punto sarebbe toccato anche a noi di trovare il nostro momento di autocelebrazione e anche di risoluzione dei nostri dell'autoaffermazione. Prima o poi sarebbe toccato il nostro turno. Ora, tutto questo è una cosa così trasversale rispetto alla società, così direi post-fordista, cioè non riguarda riguarda più classi, cluster sociali, minoranze razziali, no, è una cosa che va ben oltre queste categorie classiche, e infatti l'anarcocapitalismo si pone sostanzialmente su questo, il positivo micidiale sostanzialmente per questo, perché fa a pezzi le classi, cioè neutralizza l'idea anche un po' consolatoria che per tanto tempo di Foucault, per cui dove c'è potere c'è resistenza, cioè la fa fuori questa possibilità, no? E per fare questo il sistema ha bisogno di abolire le classi, cioè la vera grande secondo me intuizione del capitalismo contemporaneo è questo, cioè avere sostanzialmente frammentato la possibilità di identificare doppie identità, perché ha rotto la struttura classica del conflitto classico sostanzialmente, per cui c'è potere ma non c'è resistenza, perché non ti accorgi nemmeno che c'è potere, perché vabbè, sta finendo, è una cosa che dura poco, e non è una cosa che riguarda il sistema, ma è una cosa che riguarda una congiuntura economica, ce l'hanno raccontata così tutta questa storia. Tutto questo è complicato, perché significa che per chi lavoriamo, quando facciamo lavoro sociale, lavoriamo per noi stessi, in realtà, anche per noi stessi. E quindi l'unica dimensione entro cui possiamo capire il senso di quello che stiamo facendo è se lavoriamo dentro la relazione. Cioè, se l'unico vero obiettivo è la costruzione della relazione, la possibilità di innescare alcuni processi, è l'idea che questi processi possano compiersi secondo percorsi che non possono essere necessariamente predefiniti. Questa cosa, e poi magari mi fermo e facciamo un primo giro di chiacchiera se mi va, questa cosa è in qualche modo conclamata dalla geografia contemporanea. Voi sapete che la rappresentazione dei territori in generale del mondo è sempre, in geografia, non sempre assegnata alle mappe, no? Le mappe sono esattamente una convenzione, le mappe sono veramente un grande spazio simbolico, perché alla lettera si fondono dei simboli che ci dicono che quella roba lì è quella cosa lì, no? Altrimenti se non ci fosse la dimensione simbolica non esisterebbe la mano. Vi leggo quello che dice Franco Farinelli, che è forse il più importante, vediamo se trovo, appunto, che l'avevo preso. Franco Farinelli è il più importante, forse il più colto, il più interessante tra i geografi sicuramente italiani contemporanei, che dopo aver per anni parlato di mappa, esplorato proprio il concetto di mappa, dice più o meno questo. Cioè, pensiamo di solito per criteri, i territori sono le mappe, sono cioè la loro rappresentazione iconica supportata da simboli e convenzioni che ci fanno orientare dentro un sistema di segni. I territori sono un simbolo, per quanto la geografia moderna, figlia dei sistemi digitali e dei layers, abbia adottato nel tempo le mappe tematiche come dispositivo per la rappresentazione delle molteplici dimensioni, molteplici strati di un territorio, la mappa continua a essere uno strumento statico e di fatto inadeguato a restituirci che cosa è davvero un territorio. Lo stesso può dirsi identicamente per definire cos'è una città. Ciò è vero appunto da spingere Farinelli a dire che la città non può essere ridotta ad una mappa, ad un dispositivo topografico composto da strade, edifici, muri, ma dove scompaiono le persone. Tanto il mestiere, questo lo dico io, quanto il pensiero degli architetti, di figure, cioè di lavoratori sociali, sono troppo condizionati all'immagine cartografica. Basti pensare all'uso del proprio scritto che facciamo per esempio di Google Earth, illudendoci di essere dentro un paesaggio, mentre in realtà siamo dentro un non spazio, alla lettera siamo dentro uno spazio. Allora, questo significa che non solo abbiamo difficoltà a definire un territorio, ma abbiamo anche adesso difficoltà a utilizzare i suoi codici di rappresentazione tradizionali, che sono le mappe, no? Io avevo portato, magari poi dopo lo vediamo, un piccolo film che dura un quarto d'ora, che ha realizzato Ugo La Pietra, che è un un eclettico, straordinario intellettuale italiano, designer, ma operatore culturale, regista, scenografo, professore universitario, insomma uno con cui sento molte affinità, diciamo, che ha fatto nel 1977. Ci ho pensato a questo film perché nell'incontro con Calogero, lui piccolo, siamo, a un certo punto siamo passati da quel periodo, no? Siamo passati da quell'esperienza radicale, ed è interessante vedere come in quegli anni quell'esperienza radicale, che io chiamo radicale in questo senso con specifico riferimento alla pietra perché faceva parte di un gruppo che si chiamava appunto gli architetti radicali, aveva già visto tutta una serie di cose, aveva già capito la fragilità delle mappe e la difficoltà a dominare i territori, e se quell'esperienza, come ci raccontavamo l'altra volta, non avesse subito da una parte la deriva della lotta armata, dall'altra il tema della tossicodipendenza, che vi ricordate, di cui abbiamo discusso durante l'incontro in Calogero, e dall'altra non avesse subito politicamente una massiccia, fortissima aggressione da parte delle forze organizzate della politica, che non riuscivano, proprio perché era un'esperienza che non predefiniva percorsi, ma parliamo del situazionismo, parliamo di tutte le pratiche che in qualche maniera alimentavano quella dell'esperienza, soprattutto da parte della sinistra parlamentare, diciamo, tutta quell'esperienza fu molto, molto contrastata, perché non era chiaramente definito quale fosse, diciamo, l'orizzonte, quali fossero le sorti lente progressive di questo movimento che avrebbe dovuto portare dell'avvenire anche nel nostro paese. In verità tutte quelle esperienze somigliano molto a quello che noi stiamo cercando di fare adesso, proprio perché vivevano l'accettazione di una condizione di una certa indefinitezza dello stato delle cose, e provavano quindi a costruire un codice dentro cui cominciare un discorso, o comunque provare a costruire un discorso. Allora l'ho pescato, me lo sono ricordato, a un certo punto mi è venuto in mente durante uno dei nostri seminari e l'ho portato, magari poi dopo lo possiamo vedere quando, cioè adesso, dopo, quando, ma facciamo un giro, sì assolutamente. Giro ancora presto. E allora interrogato, no? Alla cattedra. Faccio una domanda: che cos'è una periferia? Facciamo questo. Faccio un po' il professore. Che cos'è una periferia secondo voi? Questa è una domanda, questo è un centro. Quando vuoi rispondere tu? Ho rispondo alla risposta di seguire un'altra domanda e giochiamo un po' il tempo. Chi ce lo dice che cos'è un centro e che cos'è una periferia? Ce lo racconto. Da un certo punto di vista il centro si può pensare in genere sia la parte più antica di una città, la periferia la parte più recente, più moderna. Poi altre definizioni di centro e di periferia? La periferia deriva da una parola greca ed è ciò che sta attorno. Una cosa che posso dire rispetto all'aggancio con da dove parte questo ciclo di incontri è la nostra percezione in questi 5 anni di Borgo Vecchio come una periferia di Palermo. Noi, senza troppi ragionamenti fin dall'inizio, abbiamo anche molto ingenuamente considerato fin da subito il Borgo Vecchio una periferia di Palermo. E dove il paradosso è che sia che c'è ancora tanto quanto periferia. Infatti questo è molto storico, quindi coincide con la dimensione geografica è esistenziale la periferia rispetto alle connessioni, così di anarcho-capitalismo. C'era quel libro tipo Chiesa di Zoom, le connessioni tra i centri, no? Esattamente. tra il centro economico di Palermo con Roma che non tra Palermo e la sua periferia e scorrendo della fine, non è un fatto. Però nel discorso politico noi continuiamo a sentire parlare di periferie come dei luoghi geograficamente, cioè rispetto alla sua nozione etimologico geografica, cioè luoghi disposti lontani dal centro e intorno al centro, cioè ancora dentro una dialettica centro-periferia. Mentre l'esperienza che voi portate di questa nozione è un'esperienza per condizione, non per posizione, cioè è periferica quella una condizione della città, indipendentemente se essa si trovi al centro della città, in quello che continuiamo a chiamare il centro della città. Ma perché lo chiamiamo il centro della città? Anche lì, perché ci sono i negozi, ma anche in Viale Strasburgo ci sono i negozi e i prezzi sono gli stessi. Questo che cosa significa? Significa che dal punto di vista economico quel centro comincia a valere tanto quanto questo. Eppure pensiamo, percepiamo quelle, il discorso che di fatto stiamo facendo è che ho capito che tutti quanti in qualche modo condividono, no? Però il paradosso qual è di questa questione delle periferie? Che è Cortile Cascino, l'altra volta parlavamo di Cortile Cascino, no? Cortile Cascino era incistato le città per secoli si sono costruite su se stesse, cioè stratificandosi sul loro stesso corpo, le cui dimensioni erano grosso modo sempre le stesse, per secoli. Cortile Cascino era nel cuore di questo nocciolo stratificato della città, no? E dentro Cortile Cascino, accanto Cortile Cascino, c'era la città borghese, c'era l'aristocrazia decaduta che però guarda caso finanziava le operazioni di Danilo Dolci, eccetera, eccetera. Quel tipo di città, e Cortile Cascino in particolare, producevano processi di territorializzazione. Quando a un certo punto la città smette, ma non Palermo, parliamo della città del Novecento, smette di costruirsi su se stessa, è nel giro di pochissimi anni, che noi questa percezione non ce l'abbiamo perché siamo nati dopo questo fenomeno, ma vi assicuro che come ci sono una serie di scritti, di storici di architettura molto interessanti che leggevano come totalmente spaesante il fatto che la città nel giro di pochissimo tempo diventasse 10 volte quella che era stata per secoli. Cioè questo genera proprio nella percezione stessa dei cittadini nel proprio spazio fisico un grandissimo senso di spaesamento. Paradossalmente più la città colonizzava territori più si deterritorializzava, cioè dire il processo di territorializzazione inteso come dicevamo prima noi, cioè come azione dei corpi che definiscono uno spazio, in verità si andava sempre più. Per questo la gentrification ha bisogno di essere accompagnata sempre da deportazioni alla lettera, cioè da spostamenti massicci di corpi e di radici in luoghi sradicalizzanti, perché altrimenti anche le resistenze dei processi di territorializzazione della dialettica, della dinamica dei territori sono sempre molto forti, per cui per poter operare una gentrificazione tu hai necessità di fare proprio questa operazione. È esattamente quello che è stato fatto a Palermo, per cui tornando anche al vostro lavoro è chiaro che lavorare alla periferia di Borgo Vecchio è una cosa completamente diversa che lavorare alla periferia di Zen. Sono due esperienze molto molto diverse. E Borgo Vecchio è uno dei, si chiama così perché non è una periferia in senso geografico, perché è uno dei più antichi nuclei abitativi della città, eppure è una periferia per come la descrivete voi giustamente, che poi dentro Borgo Vecchio ci sono i centri delle periferie anche lì, se proprio vediamo la tutta, cioè Dallas, che cos'è? Dallas è il quartiere Cascino di Borgo Vecchio alla fine, no? Per cui anche su questo, diciamo, su questi concetti c'è proprio un problema di aggiornamento nostro semantico, c'è problema di scrivere proprio questo discorso, nel senso che generare conflitto significa anche generare conflitto da questo punto di vista. Cioè, E quando qualcuno continua a parlare di periferia in quei termini, bisognerebbe far emergere le pratiche quotidiane, le vostre esperienze, di che cosa è veramente periferia e di che cosa è veramente centro. Perché altrimenti tutta la retorica su centro e periferia si continua ad alimentare. Guardiamo il discorso della politica di questo momento, cioè capisco che nei momenti elettorali tutto si semplifica in una maniera persino radicale, c'è una semplificazione radicale, mi verrebbe da dire. Ma in questo momento le periferie, il tram va verso le periferie o viene dalle periferie? Quindi ci poniamo domande importantissime, difficilissime, ma i termini del discorso della domanda sono continuamente termini fasulli, diciamo, ingannevoli. Anche senza microfono. Sarò lungo. Ma no, per strano. Allora, anche come per provare a raccogliere alcune cose di questi 5 incontri e anche a metterle assieme. Intanto questo qua è un lavoro che noi diciamo che lo dobbiamo fare da mesi, che però non riusciamo mai a trovare 3 ore per farlo. Io intanto sono molto contento di questa opportunità che è nata con Claudio e con Giro e dei 4 incontri, a parte quello mio, sono 4 incontri di ragazzi, che sono 4 persone, quelle che gli altri relatori che io conosco da ognuno da molto tempo, ma in situazioni diverse, che si sono incrociate con alcuni in modo fitto, con alcuni meno. In particolare con il gruppo di persone con cui questi scambi sono più fitti, che è appunto un gruppo molto fluido, per usare una terminologia che non mi piace, con cui da qualche anno organizziamo incontri, organizziamo seminari, presentazioni di libri, abbiamo provato a raccogliere alcune suggestioni all'interno di un testo, ora stiamo sperimentando su questo terreno di formazione, con Calogero, Rosaldo, Giuseppe, ma anche Rosanna e Gilda e qualcun altro, e da mesi ci diciamo, noi dovremo provare a fermarci e trovare un pomeriggio in cui tutta una serie di cose che sembrano appartenere ad ambiti molto diversi, dobbiamo provare ad esplicitare quali sono i nessi che li tengono assieme. Ci portiamo avanti quel lavoro. E uno dei motivi per cui, quando è nata l'idea di fare questo ciclo di seminari, Giuseppe è stato uno dei primi nomi che mi è venuto in mente, anche se era uno che di lavoro faceva qualcosa che sembrava assolutamente distante, è perché il tema della metropoli mi sembrava assolutamente centrale. Prova di utilizzare perché. Ma periferico, secondo me. O periferico. Che è uguale. Un recente libro di Le Breton, dal titolo Fuggire da sé, descrive una condizione diffusa dell'uomo contemporaneo come l'uomo contemporaneo, una volta spogliato dalle identità che ne regolavano l'esistenza in termini geografici, lavorativi, politici, nel momento in cui alcune coordinate forti che regolavano l'uomo del Novecento sono venute a crollare. L'uomo del Novecento era ben definibile attraverso il suo posizionamento geografico, la sua condizione lavorativa e la sua appartenenza politica, e queste 3 cose avevano un porto adesso l'una con l'altra. Nel momento in cui i confini entro cui noi definivamo l'identità vengono a crollare, la condizione di chiusa è quella del fuggire da sé. E il perdersi, e l'uomo tutto il tempo, no? Il perdersi nelle patologie, il perdersi anche nelle passioni, ossessive, il perdersi appunto anche, come dire, da un lato nella, nello smarrimento depressivo, ma dall'altro anche nell'ossessione, per esempio, per, cioè, quando ognuno di noi, cioè, gli ossessionati dalla corsa o dalla partita o dal calcio, nel ritiro, la cosa che mi interessava era capire come questa condizione del fuggire da sé, come si traduce quando la spostiamo dall'ambito individuale agli assetti collettivi e agli assetti urbani. Cosa vuol dire che una città fugge da sé? Cosa succede a una città quando i confini, quando le coordinate sociali, politiche, economiche che ne regolavano in qualche modo la vita vengono ci butto in un centro e periferia, ma anche se la città moderna era concepita nella sua divisione attraverso anche lì una stretta analogia tra le divisioni economiche, le divisioni sociali e le divisioni lavorative, se le periferie all'inizio sono nate come luogo di residenza della classe lavoratrice, nel momento in cui questa cosa salta, nel momento in cui le periferie non sono il luogo di residenza della classe operata, ma il luogo, come dire, dello smarrimento in qualche modo, e appunto noi ci troviamo di fronte a una deterritorializzazione all'interno della quale ci dobbiamo muovere per immaginare una riterritorializzazione attraverso categorie che dobbiamo andarci a ricercare, e mi sembra che questo qua sia in qualche modo il lavoro, lo stesso lavoro che fa il gruppo analista, l'architetto, l'educatore o il militante politico. Io da tempo dico a Sando che i gruppi analisti dovrebbero leggersi Moltitudine di Toni Negri. Perché? Comprendere come è quello su cui ci dobbiamo lavorare è su assetti gruppali, micro o macro, composti non da un uomo, come tradizionalmente saremmo stati abituati a fare. Quello con cui noi ci dobbiamo lavorare non è la classe operaria, cioè un insieme di persone che condividono stessi orari, stessi luoghi e stessa tipologia di lavoro, ma noi ci dobbiamo lavorare, tanto il gruppo analista quanto l'architetto quanto l'educatore, in assetti complessi in cui ognuno delle persone che ha passato un processo condivide molto con gli altri a partire dall'essere portatore di una differenza, e questa mi sembra una condizione, un tenore di lavoro fondamentale. Perché quando noi ragioniamo sulla metropoli, sulle patologie della metropoli e sulle passioni della metropoli, e come ci troviamo a tradurre, a fare l'autonomia dell'irrequietezza, e quando ci troviamo a guardare l'irrequietezza non solo dell'individuo, ma l'irrequietezza di un assetto sociale, noi con cos'è che ci troviamo a chiedere? Con quello smarrimento, in cos'è che si traduce costantemente? In una frustrazione che porta il rancore, l'invidia, i sentimenti più diffusi con cui ci troviamo a che fare. È il rancore verso chi ci sta accanto, l'invidia per chi, verso chi ci sta immediatamente sopra, la rabbia verso chi ci sta sotto. E, rispetto a quello che diceva Giuseppe, del fatto che qualsiasi progetto deve tenere fede al processo, disinteressandosi in qualche modo della, degli esiti ultimi, mi sembra che sia molto simile a quello che diceva anche Ferdinando, nel senso che ridare centralità al progetto vuol dire azzerare la distanza tra mezzi e fini e recuperare una dimensione di una persona di spazio pubblico. Io penso che l'unico modo, tanto quanto lavoriamo a Borgo Verso, tanto quando facciamo un giro di seminari, l'unico terreno possibile sia quello di aprire uno spazio pubblico in cui mettere in gioco degli elementi, in cui intanto dimentichiamo l'importanza di quel processo che stiamo contemplando e dimentichiamo anche l'importanza del fatto che ciò, cosa succederà, cosa se ne farà ognuno dei partecipanti di quegli elementi messi in campo è impossibile determinare. Alcune suggestioni dalle immagini che abbiamo dettato all'inizio. Perché le parole di Topper hanno fatto tornare in mente le immagini di prima, che abbiamo dettato. C'erano, se avete visto, ricorreva a una chiusura, un intrappolamento, reti, barre. Ho pensato a un sentimento che ha il meridionale, oltre a quello che ho pensato, il meridionale è molto snob, nonostante sia terrona. Questa condizione terrona non vorrei diventasse, andasse a finire un po' come l'antimafia. Cioè, se voi parlate con i cittadini del centro, o quantomeno quelli che non si sentono marginali, di Porto Vecchio, vedete immediatamente una sorta di sorriso smorfio. Vabbè, anche quando è capitato di dire i bambini a scuola, la scuola di Porto Vecchio, non sente più. Questa è la spenta. Però poi ti ritrovi le stesse persone, non funziona. Si sente? No. Già, sì. Si sente perché non ha. Prova. E non lo sai come De Simone, ma l'ha detto. Prova. È il capo. Poi ti ritrovi le stesse persone, no? Che ti fanno quella smorfia, che ha a che fare con la diffidenza, perché lo snob è diffidente, che però a Porto Vecchio vanno a comprare da Tantillo l'alcol a tutte le ore della sera, per non parlare di altre cose che si vanno a comprare storicamente a Porto Vecchio. Per cui poi tu vedi i ragazzi che vanno all'Officina di Dio, che affollano quei portici, ma vanno a comprarsi le ceres da Tantillo perché le costano 2 euro al Borgo Vecchio, che fa schifo. Per cui sì, è vero che il Borgo Vecchio è tenuto costretto ovviamente dallo Stato mafioso, ma non lo Stato Stato, perché lo Stato come status mafioso, l'organizzazione mafiosa, e non c'è più. Però è anche vero che c'è una pressione come quella che ha definito Einstein, che viene da fuori, quindi non centrifuga, ma che viene da fuori, che ingabbia Borgo Vecchio nelle nostre fughe dalla nostra responsabilità, la fuga da noi stessi. Perché comunque la mentalità diffusa è che Borgo Vecchio, così come lo Zen, così va anche lo Zen a comprare la cocaina, devono restare quello che sono. Quindi lo sforzo nostro di riterritorializzare la città deve ripartire da noi. non possiamo aspettare che dall'esterno o dall'altro venga questo tipo di avvenga questo tipo di operazione. No, perché noi potremmo stare a Borgo Vecchio altri 20 anni e non cambierebbe niente. Se pensiamo di cambiare le cose, siamo degli sciocchi, degli inutili sciocchi. Perché l'operazione che si fa lì con tutta quella potrebbe essere un servizio sine die, a proposito degli esiti. Cioè non è che puoi pensare a quanto dura un progetto. Devi stare lì e basta, con quel tipo di atteggiamento. Cioè di stare sempre sull'orlo del burlone, del burlone, del burlone, sì, anche un po' burlone, non prendersi troppo sul serio da qui, no? Perché siamo noi i primi stessi a essere snob rispetto alle cose che vogliamo, perché ci difendiamo dall'orrore che ci fa vedere le bambine senza denti, le nonne senza denti che vivono dentro le case di Ethernet. È un orrore che ci provoca angoscia, ci difendiamo facendo gli snob, diciamo c'è l'una. Quindi o si riparte da questo e si mette in comune questo, visto che quella posizione, no? A essere come si dice, autoaffermati e così potente, cioè dimenticare queste cose di BAF, o l'operatore sociale è manco l'architetto, non so che cosa è pensabile poterlo fare. Noi queste cose ci diciamo sempre in supervisione, le sappiamo trite, per cui. E anche ora nei momenti di pensiero, come questi seminari, ci vogliono per poco respirare. Perché per anche ora, per chi lavora lì con grandissima umiltà e autenticità, devo dire, dal primo all'ultimo, si affatica moltissimo. Questo è, non è un inutile fatica. Con Claudio diciamo questo, al telefono, l'altro giorno. Si potrebbe pensare, vuol dire, un assetto di seminariale, di formazione permanente per tenere attenzione sulle cose, che non vuol dire faccio un mazzo così a organizzarsi di ogni 5 minuti, perché sennò ricalchiamo il capitolo, ma tenere costantemente un cadenza che magari non sono 5 seminari al mese, no? L'attenzione su noi stessi, provando a condividere quello che ognuno dal suo punto di vista probabilmente riesce a condividere. Quindi un mese si fa qui, un mese si fa da un'altra parte, se ci sono altre realtà, altre associazioni che fanno anche altre, per me per attenzione gli spazi a proprio diventare le questioni che questa parola che è un po' difficile da pronunciare. L'interiorizzazione. Quindi questo era l'auspicio fondativo che vogliamo. O rifondative, ma giusto la mente, non c'è troppo. Quindi se tu hai introdotto, non so, il video, il film. Sì, sì, vai. Ma l'altro frutto di quello che ho detto, perché dopo definire l'interferia, non so perché definiamo, prendiamo le cose, prendiamo il nuovo, le cose che definiamo, perché sei molto limitante, perché definisci più il libro. Però che lo definiamo, c'è anche qui per muoverci nello spazio, giusto? Ora, a un certo punto, e anche tu l'hai detto, quando noi parte il contributo, no? Per poter cambiare le cose, a cui c'è sempre un paio, ogni venerdì al seminario, no? Quindi cioè, parte il contributo, però non dice come si mette veramente a fare il conflitto. Io non sono tanto convinta di questa cosa. Vedi una situazione che va male, che non sta bene, perché conflitto? Tu la metti in discussione, promuovi un'alternativa, non lo so, il conflitto lo vedo come qualcosa che perdi un po' di tempo, perché mi stai combattendo, il tardi tempo, invece tu che si promuove, secondo me, non lo so. Quindi, cioè, secondo me, a termine ti serve dalla consapevolezza e dalla discussione, più che dal conflitto. Ormai l'ho sperimentata nella mia vita, anche se mi sono messa molto in guerra con me. Comunque, l'ultima cosa, lui tanto tu hai detto, perché tu dici che forza ha detto Einstein, che tu hai detto la forza della centrifuga, la forza dicevi la centrifuga, la forza centrifuga non viene dal centro della terra ma dallo spazio, la fine, no? Così centrifuga, sì, non l'ho detto io, ma io non sono tanto, ma sei sicuro di Einstein, ma non è si chiama così, comunque non è la testa cinque stelle. Forse tu hai detto però non prendiamoci troppo sul serio, che è vero, ma davvero troppo poco. Quindi non alla leggera, con leggerezza, ma mi viene da dire, però la parola troppo poetica, lievemente. Non prendiamoci troppo sul serio, ma non troppo poco. Io per un paio di cose le volevo dire rispetto alle, a questi ultimi, a tutte le questioni che sono emerse. Ma intanto la questione del seminario permanente, per me c'è già il seminario permanente. Alcune delle, non per entrare in contraddizione con te assolutamente, ma forse per dare un po'. No, per riconoscere, cioè per riconoscere laicamente le cose dentro cui stiamo e le cose che attraversiamo, cioè non per non per dare conforto, perché questo è un altro di perché invece il rischio di autoconfortarsi è un rischio molto pericoloso per un bisogna porre. Cioè io penso che sia in questo momento in atto, cioè se siamo qui non siamo qui solo perché abbiamo la volontà di essere qui, ma perché c'è un flusso, adesso parliamo di cose pubbliche, di processi che stanno generando questo, che sono esattamente il seminario di cui stiamo parlando. Questi processi, siccome si generano in tanti luoghi e siccome la differenza, diciamo, tra la città, tanto per tornare anche alle questioni di Totò, tra la città novecentesca e la metropoli contemporanea, è esattamente la differenza che c'è tra il fortismo e il conformismo, per capirci. Cioè la città dello Zond, la città moderna, eccetera, costruiva le classi, la metropoli contemporanea genera la totalità sparpagliata di cui parla Jean-Luc Nancy. Allora questo è un passaggio centrale, perché se siamo totalità sparpagliata facciamo difficoltà a percepirci come permanenti nella nostra azione, perché abbiamo bisogno di categorie che in qualche maniera ci raccolgano, che fatalmente facciamo riferimento a delle categorie precedenti, non le troveremo mai. Cioè se noi continuiamo a cercare categorie che possano descrivere il nostro seminario permanente, la nostra condizione, diciamo, di militanza, usiamo questa, prendiamo a prestito un attimo questa parola giusto per capirci, però non perché la voglia spolverare, perché mi interessa principalmente, le parole ci devono servire per capirci. Se una parola non è più adatta, come periferia non è più adatta, non lo usiamo più. Cioè così accade in tutte le lingue. Allora, se noi cerchiamo categorie per poterci riconoscere dentro il lessico, diciamo, della città precedente, non lo troviamo. Allora, invece nella metropoli, per esempio, questa questione tecnica, proprio faccio un discorso banale, la questione della prossimità, la questione della dimensione e della dispersione è un dato centrale, perché la dispersione è la distanza, genera dinamiche relazionali dentro la città completamente diverse. Se oggi noi andiamo a studiare una metropoli media, diciamo, è una città medio piccola, scopriremo comportamenti, dinamiche, azioni di gruppi completamente diverse tra di loro. Perché è così? Perché la prossemica ha le sue leggi, la prossimità fisica spaziale genera delle cose. Se io Borgo Vecchio, se ci sono i lavori in via Crispi, per cui io attraverso Borgo Vecchio perché è una strada, o perché è vicino casa mia e quindi ci vado a fare la spesa, io sono in Borgo Vecchio, da piccolo giocavo nel campetto vicino ad Allas, cioè quindi tutto questo mi costruisce una relazione fatalmente diversa da quella o da quello da un recinto della chiesa di Santa Lucia, per esempio. Costruisce delle dinamiche completamente diverse rispetto allo Zen, che invece è un luogo che, essendo sul bordo rispetto a questa parte della città, ma la dinamica che in questo momento hanno col quartiere Zen, tutta una serie di una parte di città nuova, ricca, che sta sul bordo, che adesso fa la cintura, è completamente diversa rispetto alla mia. Allora tutto questo è un dato inevitabile. cioè non solo le differenze di cui parli tu, ma anche i simili, se vivono dimensioni di prossimità diverse, i simili diciamo per affinità, cioè, vivono situazioni di prossimità diverse, vivono l'esperienza alla metropoli in un modo diverso. Allora, tutti questi sono i dati della complessità di cui parliamo, per i quali ci dobbiamo attrezzare in maniera, cioè proprio molto molto laica, sapere che una cosa la posso tenere nel frigorifero e l'altra no. Pazienza, non gliela posso tenere perché, oppure gliela devo tenere per forza, cioè con lo stesso atteggiamento, altrimenti. Poi la questione dei confini, per esempio, dei confini fisici. Cortile Cascino non c'aveva nessuna rete, nessun niente, era uno spazio attraversabilissimo, eppure aveva un suo controllo. Più le città diventano grandi, più aumentano i recinti. Questo è un fatto, cioè tutte le ricerche sulla metropoli contemporanea hanno scoperto questo rapporto direttamente proporzionale tra i metri lineari di recinti e i metri quadri di città. Cioè più una città è grande, più aumentano i recinti. E aumentano dappertutto, però non aumentano solo in periferia, cioè i recinti aumentano poi nelle zone che storicamente non erano recintate. Allora vedete gli effetti come sono assolutamente migranti dentro i contesti urbani rispetto ai cambiamenti. Quindi in questo senso e poi la questione cioè che cosa ce ne facciamo di tutto questo, a partire dal fatto che tu fai un mestiere, che te ne fai un altro, che ne faccio un altro ancora, eccetera eccetera. Questa condizione apparentemente di svantaggio, perché non ci fa riconoscere in un gruppo, ragione per cui prende grossissima forza l'apparente appartenenza ai gruppi che ti dà la dimensione digitale, cioè la dimensione che ti dà la forza dei gruppi e della gentilità, nasce esattamente per questo, cioè perché colma un vuoto che è il vuoto invece delle categorie più classiche. Però se noi guardiamo le scienze oggi ci dicono che i sistemi restano in vita a partire dal loro grado di biodiversità, cioè più il sistema ha un alto grado di biodiversità, più il sistema resta in vita. Tutte le ricerche sul paesaggio, da Gilles Lehmann, ai botanici, ai biologi, raccontano questo. Invece più un sistema è povero di biodiversità, più il sistema tende in qualche modo segnata la strada del suo deperimento. Allora da questo punto di vista, questa dimensione della differenza è quello che potrebbe essere Palermo se facesse un vero lavoro su questo, e anche lì si sta facendo un lavoro su questo. Però per esempio il tema non è l'accoglienza, secondo me, cioè la dico proprio brutale, la dico come dire, stando dentro, tutti, essendo amico, intimo di tutte le persone che lavorano con questo, cioè non è un problema di... cioè il tema non è accogliersi casomai, l'accoglienza nel senso come ci accogliamo, il tema non è... io parteciperò domenica a un dibattito, chissà, vediamo che succede, qui c'è anche il sindaco organizzato da Fate Abdam, no? Che conoscete eccetera. Io sono contento che io non sono un esperto di migranti, perché non mi piace nemmeno la parola migranti, forse sono un esperto di persone e quindi ci occupiamo di persone, punto, non so come dire. Quando il compagno Alamin è stato preso, veramente è stato offeso, vilipeso, voglio usare questa parola da vecchio come si usava una volta per lo Stato, insomma lui ha subito un vilipendio come quello che subivano gli stati quando facevano mostravano i muscoli. Io ho scritto un post, non mi sono nemmeno sognato di dire da dove era nato, da dove veniva, qual era la categoria a cui apparteneva. Era una persona che è stata offesa, punto. No, allora tutto questo culturalmente anche lì, anche semanticamente, necessita di ulteriori aggiornamenti del discorso, perché solo se culturalmente riusciamo a superare questa dinamica, riusciamo a essere abitanti dello Zen, nel Borgo Vecchio, di Via Libertà, di Piazza Massimo e di Piazza Maggiore, altrimenti tra sempre i confini rimangono. No, questa cosa stavo pensando è stato oggetto di una lunga discussione quando ci fu la sparatoria con i confronti di YouTube, per cui chi viveva veramente le dinamiche di quartiere qui stava, diciamo, provando a mettere in atto un'azione, no, di contrasto, e chi invece da fuori con le solite letture. Per cui la questione era se indire una manifestazione contro il razzismo o una manifestazione contro la violenza. Alla fine prevalse per fortuna la seconda, perché per noi nella naturalezza della coesistenza di chi abita in questo quartiere il problema era la violenza, non era una questione di razzismo. Eppure non fu facile, ancora ora cioè è causa di conflitti e di spaccature questa questione, però probabilmente è un processo anche lungo. Io volevo solo aggiungere una cosa che lo diceva Giuseppe, anche nel ringraziarlo diciamo a nome di tutti, però ci siamo anche interrogati in queste settimane che cosa ha il senso di questi incontri. Io personalmente qualche settimana fa sono stato invitato, come succede spesso per ovvie ragioni, ad un'iniziativa in cui si parlava del Borgo Vecchio, il nostro lavoro eccetera eccetera, quello al Palazzo al Cinema de Sera, della Martina, Gabriele, Cristian eccetera eccetera. E a seguito di una serie dei nostri incontri, quando io mi sono trovato a parlare del Borgo Vecchio, mi si è accesa una lampadina che poteva essere rispetto al Borgo Vecchio o in generale rispetto a qualsiasi altra discussione, che mi ha totalmente cambiato la prospettiva. E quando ho finito di raccontare la nostra esperienza, la prima cosa che ho detto a Cristian, a Martina e a Gabriele è stata: questo ciclo di scontri, cioè, mi ha totalmente ribaltato, o comunque mi ha parzialmente, quando voglio dire, ribaltato una prospettiva rispetto alla nostra vita. E fosse anche, diciamo, avesse anche inciso nella mia presentazione, la presentazione di noi stessi, quando ci presentiamo nei confronti degli altri, per me già è un risultato oltre le aspettative. Come diceva Salvo, la vorremmo estendere, perché l'obiettivo non era fare un video. Siamo stati in 50, 40, 30, 5, ma grazie anche, diciamo, allo stress che questo ha portato a Girolamo, abbiamo provato a uscire fuori dalla questione della performance, dal risultato di performance. E quello che vorremmo provare a portare da settembre è un ampliamento non numerico, ma in termini di partecipazione organizzativa dal basso. Cioè, noi vorremmo che 5, 6, 10, 20 organizzazioni a Palermo adottassero questo ciclo di seminari, e ognuno prendesse in carico all'interno di un unico pensiero l'organizzazione e il proseguo di questo diciamo, primo tassello, che noi non abbiamo inventato niente di nuovo, però diciamo, ci abbiamo messo un po' di testa di pensiero. Io non so se volete vederlo così. Vai. Una sola cosa, volevo fare, perché siccome hai dato tante suggestioni, allora volevo chiedere una cosa. Intanto, per chi ha lavorato nel Borgo Vecchio e non ha visto il cascino, che non esiste più, se avete vedete il documentario, è scioccante la similitudine della parte più povera dove abbiamo lavorato, perché mi sembrava di essere esattamente dietro la cartiera dove abbiamo avuto il centro per 4 anni, Cortile Cascino. L'ho visto il documentario su YouTube, insomma, sono rimasto scioccato quando lo vidi l'anno scorso e me ne avevano parlato. Prima cosa, seconda cosa. Quando Giuseppe pone la domanda, secondo voi che cos'è il centro e la periferia, ovviamente è per simulare un dibattito e per dire che oggi nella metropoli urbana moderna non esiste più centro e periferia, ma esiste cittadinanza sparsa, diciamo. Però noi ancora, sia i politici che chi lavora, secondo me, fa un errore semantico. Perché quando noi intendiamo centro e periferia, se tu vuoi sapere il significato di periferia o di centro in senso stretto, io ti dico che la periferia è appunto ciò che sta attorno al centro. Però noi abbiamo sempre identificato, per una serie di motivazioni storiche, la periferia con il non con il margine, quindi ci resta intorno al centro, ma con la marginalità, che è assolutamente una cosa diversa e che oggi non esiste più, perché noi abbiamo pezzi di marginalità al centro e pezzi virtuosi in periferia. Quindi, esatto, quindi già questa cosa lo zen, esatto, quindi è chiaro, che è dato però subito questa visione, questa immagine me l'ha rivoltata subito con uno schiaffo in faccia, perché ancora oggi continuiamo a parlare di centro e periferia, con il centro, ciò che sta al centro anche degli avvenimenti, e periferia come ciò che sta ai margini, senza considerare il fatto che oggi le cose sono molto più mixate. E poi vi volevo dire che ci sono già altri seminari di questo tipo a cui io sto partecipando, uno anche Claudio ha partecipato a uno di questi, che è con la tavola con i Valdesi, con logicamente Nietzsche, in cui la cosa che è uscita forte è anche il tema che abbiamo toccato qua, e questo mi fa molto piacere, che è il processo di UNESCO. Cioè concentrarsi sull'UNESCO senza controllare gli esiti, secondo me è ciò che io vedo come la mia futura religione, nel senso, siccome le ideologie passate hanno sempre, no, c'è un po' di polemica, perché il laboratorio Z, diciamo, era una roba di passioni diverse, siccome il processo che non controlla i commessi è ciò che è, diciamo, è un po' quello su cui ci dobbiamo concentrare, perché i processi che volevano controllare gli esiti sono frutto appunto delle ideologie che poi hanno totalmente fallito, perché è impossibile diciamo controllare negli esiti, proprio perché ci sono tutta una serie di fattori che stanno cambiando, che è impossibile fare diciamo una previsione di quello che succederà. È per nostra, diciamo, salvaguardia anche personale, secondo me, iniziare a lavorare sugli inneschi e non sugli esiti sarebbe utile, anche perché così mi risparmierei un po' di psicoterapia, un po' di una nuova trascendenza. Però è vero, però la questione del conflitto, dentro questa dinamica prevede il conflitto. Credete che il processo, proprio perché è un processo, si genera, come si generava tra te e Bambi in quel momento lì, il conflitto rispetto alle vostre... Non si chiama il conflitto. Però il problema, sì, lo possiamo chiamare come vogliamo. Secondo me il problema è riconoscere la dinamica, poi sì, sarà chiaro il nuovo conflitto. Cioè è una dinamica che, proprio perché è di processo, poi ci sono quelli che il processo lo vogliono condizionare, quelli che lo vogliono portare da una parte e quelli che lo vogliono portare da un'altra parte, a voglia di conflitti elettorali di questo tipo. Cioè diventa, ma riacquista centralità però in una forma diversa rispetto a come siamo abituati a pensare. Questo è il punto. E poi l'altra questione del conflitto, dice la questione del conflitto con se stessi, se noi non apriamo in qualche modo con noi una dimensione di conflitto, non tanto rispetto alla nostra autopunizione, il nostro senso di colpa, cioè quello non è conflitto, quello è un'altra cosa, quella è la malattia che ci hanno appiccicato addosso. È il conflitto con le categorie con le quali stabiliamo di essere autosufficienti, per le quali sappiamo di essere o troppo sufficienti. Lì che deve aprire il conflitto, perché comunque sono troppo rassicuranti alle volte, sì. E noi ci rassicurano con appunto a me, mentre voi parlavate, nel mente io abbiamo fatto la prima discesa in strada fuori dal centro, io ho in mente quei 13 cassonetti che lei ha fotografato, no? Un mio grande stupore scopre che il falegname ha fatto la domandina all'AMIA per farsi togliere i cassonetti. Nel mio cervello ho distrutto la teoria che manco la mafia riesce più a fare la mafia. Non so se è chiaro, c'è neanche la mafia in quartiere riesce a fare la mafia, perché 13 cassonetti sono totalmente, vabbè, ora con l'estate potete immaginare, l'accettito delle famiglie, a proposito anche di periferie dentro le periferie, nel senso del nome. Borgo Vecchio c'è una periferia dentro la periferia, perché 13 cassonetti ghettizzano le persone che stanno in quella piazza, nel Calcetto, dove tutti vanno da via Albanese, tutto il quartiere va a buttare l'immondizia in quella discarica. Perché all'altra parte c'è la differenziale. Dove il povero Falignani mi dice che ha fatto la domandina all'AMIA. Per me è inaccettabile che lui avesse fatto la domandina all'AMIA. Concettualmente. Allora lui ha pensato provocatoriamente che neanche la mafia può fare la mafia. Quindi si crollano tutte le categorie. Oppure sta agendo il suo conflitto con una dinamica che vuole demolire, perché forse quel campetto non è amato da tutti, cioè, perché sta producendo delle trasformazioni culturali che possono preoccupare. Cioè le dinamiche possono essere diverse, ma se c'è sempre dentro il conflitto, cioè, questo voglio dire, non siamo dentro la pacificazione. In cui ci teniamo tutti per mano e andiamo verso il problema dei figli, questo è il cartello, insomma, non gli sciagurai, lo sciagurai. Vabbè, vediamo, dai. Che lo lanci tu, lo sai dove, non lo so io.